Prima di tutto, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Ci sono due notizie non molto carine che bisogna fare in questo momento. La prima è che, come voi sapete, in Colombia si faranno le elezioni presidenziali, Senato e Camera per il prossimo anno. Quindi siamo in campagna elettorale, o sono in campagna elettorale, e in questa campagna elettorale c'è la possibilità di che un colombiano rappresenti a tutti i 7 milioni di colombiani che stiamo nell'esilio o nella diaspora o fuori di Colombia, chiamatelo come volete, più o meno la stessa cosa. Questa settimana scorsa, in una riunione via Zoom che si stava sviluppando con una compagna di Svizzera, Carmen, e alcuni altri compagni d'Europa, ha entrato un personaggio parlando spagnolo, spagnolo molto, molto vulgare, molto, molto basso, e ha minacciato di morti a nostri compagni. Tutti, facendo il nome, sì, uno per uno, dicendo tutta una serie di elementi personali. Ha detto un sacco di cose personali, ha detto che questi compagni avevano famiglie, ha detto che sapevano dove stavano, hanno fatto, c'era un lavoro di intelligence prima di quella famosa telefonata. Noi denunciamo e repudiamo questa storia. Non possiamo permettere che la violenza che c'è in Colombia arrivi alle porte d'Europa. Le chiediamo a tutti le autorità competente di prendere carte nell'assunto e fare lo che bisogna fare. Non possiamo menospreciare ni descuidare questa cosa. È gravissima. Nostra compañera che è venuta da Svizzera è una compañera guayú indigena del nord di Colombia, nord, e è esiliata per persecuzione politica in Colombia. E non vogliamo, ni mi sembra giusto, farla nuovamente emigrare in un altro paese all'interno d'Europa. È responsabilità dell'autorità prendere tutte le carte. Le denunce sono fatte, il processo non so come stanno andando, però dovrebbe stare andando. Con questo lascio un'allerta anche per tutti i compagni che stanno in Italia o che stanno vicino al movimento, di fare molta, molta attenzione con chi parlate, come parlate e dove parlate, perché la situazione sta diventando molto, molto brutta. E come abbiamo detto una volta, noi sappiamo che si sta pensando in fare un piano Condor 2 e bisogniamo stare attenti. Grazie compagni, mi auguro che qualcuno di voi non faccia campagna di solidarietà e appoggio a queste cose. No, io credo che questo è anche un tanto, io ringrazio te per venirlo a dire, per darci la possibilità di saperlo, perché è vero che l'informazione sulla Colombia è poca e ancora meno è forse tutta una serie di meccanismi che poi invece si muovono serenamente tra di noi, no? Tanto parliamo di migrazione quanto poi siamo ignoranti come italiani rispetto a tutta una serie di dinamiche reali che si muovono. Detto a questo, chiaro, abbiamo visto quanto ve lo abbiamo raccontato quanto c'è questo tipo di attacco. In questo caso a questa compagna non solo gli arriva in quanto indigena, ma attacca tutto un fronte che in questo caso fa fronte col popolo indigeno, e non è casuale. Io personalmente ho visto questo video, per me che sono europea è spaventoso. Poi chiaramente succedeva in Svizzera, che può sembrare ancora peggio, perché uno pensa sempre che la Svizzera sia poi, no, la trincea della sicurezza, del lusso e del privilegio. Poi chiaramente, voglio dire, la rete è la rete, mo io non so, da questo punto di vista sono ignorante, non è la prima volta che in questo aumento poi di incontri virtuali dati dalla situazione mondiale per l'emergenza sanitaria, poi queste cose sono successe, ma questa io ancora non ne avevo viste di così, onestamente, no? Abbiamo vissuto a tante incursioni di disturbatori, ma questo ve lo giuro è veramente un caso molto molto più preoccupante, è veramente una minaccia palese, e questo è, come dicevi, collegato a queste elezioni in Colombia, di cui in un modo o nell'altro vi stiamo parlando, ve le stiamo forse legando adesso a tutto il discorso che vi abbiamo fatto, perché quello che vogliamo fare è dare la possibilità per noi europei di imparare delle cose per poter poi veramente essere capaci di parlarne e di ricostruire. Io voglio dire, internazionalismo, poi c'è sempre qualcuno che, no, che ti attacca la pipa, allora chiamiamolo come vi pare, però qui insomma, se è vero che dobbiamo ricostruire un privilegio, dobbiamo imparare chi sono quelli fuori da noi, e parlare di Colombia ci insegna tante cose. Detto questo, dall'altra parte io credo anche per chi invece, appunto, come diceva Eder, è esule nella diaspora oppure fuori dalla Colombia, diciamo come ci pare, impariamo a capire e ad ascoltare soprattutto, perché spesso le dinamiche sono così diverse che non abbiamo veramente molto da dire se non da ascoltare. Quindi grazie Eder. E poi ce n'è un'altra di notizia, sì. Ahimè, c'è una notizia che sta molto collegata a questa. La compagnia de Svizzera fa parte a Colombia Humana. Colombia Humana è il partito politico di Gustavo Petro, candidato progressista, chiamiamolo progressista, qualcuno lo chiama sinistra, di Colombia, molto probabilmente presidente di Colombia, molto probabilmente per le prossime elezioni. Comunque, presidente o no, ha fatto 8 milioni di voti nella ultima elezione e è rimasto con il 43% di voti, cioè tutti i voti, ha rimasto con 43%. A lui, per questioni giuridiche complesse, le avevano tolto la personalità giuridica al suo partito, Colombia Humana, e Colombia Humana fu costretto, fra virgolette costretto, a prendersi l'aval politico di un altro partito molto più piccolo, che la UP, Unione Patriottica, che fu un partito sistematicamente sterminato nella storia di Colombia. E hanno rimasto pochissimi, quelle pochissime hanno fatto la cortesia di dare il timbro, diciamo, dare il timbro, dare la personalità giuridica, certo, a Gustavo Petro. Però come la borghesia o il potere in Colombia non dorme, veramente non dormono, hanno fatto una giocata maestra, e era pochi giorni fa ritornare la personalità giuridica a Gustavo Petro, e quindi lo metteva un po', e adesso lo stanno cercando di metterlo fuori del patto storico, e così lui sarebbe costretto a andare via solo, non senza coalizione, all'elezione, e così sarebbe quasi indiscutibile che si farebbe un secondo giro. Certo. Perché in Colombia c'è la possibilità di fare un uno o due giri, sì, ballottaggi, come lo chiamano qua. E los compagni di Colombia Humana in Colombia sono stati amenazati, i compagni che stanno lavorando con Colombia Humana fuori di Colombia ci sono amenazzati, ad esempio questi, come abbiamo visto. E compagni, bisogna dirlo che in questo momento c'è moltissime possibilità di che in Colombia si faccia un mega fraude elettorale. C'è una storia carina, per finirla corta, è di che si è cercato il registratore colombiano, che è l'uomo responsabile delle votazioni, del conteggio, dell'amministrazione, tutta la logistica, tutta la macchinaria, sì, della elezione, per portare avanti un'elezione. Per portare e lui prima di tutto ha riconosciuto che lui in statistiche sue ha 5 milioni di più di colombiani, che nessuno sa di dove sono usciti. E perché lo che in Colombia listan, che si chiama DANE, l'Istituto Nazionale di Statistiche, sì, parlano di 50 milioni di colombiani, sì, e la registraria parla di 55. Quindi sono 5 milioni di persone. Sì, che comunque non votano tutti, almeno 18 anni. No, quelle 5 milioni voteranno tutti. Certo, sicuramente. No? Sappiamo dove. No, certo. Sì, sì, e per chi soprattutto, sicuramente. Sì. Quindi, e dopo le hanno fatto il quesito di che fare, e lui ha detto: i personaggi che pensano o che credono che in Colombia si farà un fraude elettorale, le recomiendo non presentarsi nella presidenziale per le prossime elezioni. Così se pensate che ci sarà degli imbrogli, non vi presentate. Date, basta. Così, ah bene. Vabbè. Allora, senti, Edere. Allora mettiamoci in cose un po' più. Senti, carine. Ci mettiamo ad ascoltare un po' di musica, dopo ci racconti un po'. Okay. Che dici? Ci mettiamo a fare questa cosa, dai. Allora un po' di musica, abbiamo lasciato dietro l'informazione sulla Colombia che sentirete. E io vi farò questa domanda, sicuramente scontata la risposta, però ascoltate, e se vi domandassimo, ma da dove pensate che è questa musica, da dove proviene? Dopo ne parliamo e Eder ci racconterà sicuramente qualcosa. Allora Eder, qua dove stavamo? Sono confusa. Voi dove pensavate di stare? No. Se qualcuno ha detto l'Africa, rivelaci. Perché non capiva lo spagnolo che un po' si cantava là. Vabbè, guarda, non c'aveva tutti se i torti. Se parlava spagnolo, se parlava di Africa. Non c'aveva tutti i torti. Però no, questo stiamo parlando del 100% colombiano. Insomma, sì, anche questo è Colombia. Sì, anche quello è Colombia. La puntata di oggi era parlare di un po' della cultura, di diversi Colombi, ossia perché Colombia è un paese grandissimo, come l'abbiamo detto, e ha un sacco di suddivisioni, culture diverse, criteri diversi. E come a me sempre mi piace farmi le cose ogni volta un po' più difficili, ho cercato di far conoscere, anche sia per un minuto, un po' di cultura un po' diversa alla insolita cumbia o all'insolita salsa, che per carità sono bellissimi, ecco. Non ce l'ho niente contro loro, mi piacciono, mi innamorano, però mi sembra che sia anche giusto fare conoscere questo. Bene, bene. Va bene, questo da dove viene? Questo viene dal nord di Colombia, per le persone che per una ubicazione geografica avete l'idea di dove sta Colombia, avete l'idea di dove sta Panama. Sì. Avete la idea dove sta Venezuela? Sì. Lì c'è una penisola grandissima colombiana che si chiama Guajira, che guarda a tutto l'oceano che voi chiamate Caribe. Che al è bellissimo. Mare Caribe, certo. È bellissimo. Se non lo sapete, avete sicuramente il telefono davanti, aprite la mappa della Colombia, ci mettete un secondo e mezzo. Sì, vabbè. Sì. Comunque, in quella zona hai una zona grandissima. E quella zona si chiama Regione Caribe, perché è bagnata, tutta quella zona è bagnata per l'Oceano Caribe, e gli hanno messo quel nome. Certo. Gli hanno potuto mettere un altro, però va bene, hanno messo quello. Semplifichiamo, dai. E semplificando, in quella zona ci sono un sacco di musica diverse, culture diverse, non è che il Mapale sia l'unico, il Mapale è uno dei tanti. A me il Mapale mi piace soprattutto per la storia che ha, però sta anche il vallenato e altri ritmi musicali molto belli. Però parliamo del Mapale. Il Mapale viene propriamente da Africa, per quello è africano perché viene da Africa. Non so se voi lo sapete che 450 anni fa gli europei hanno fatto l'affare più schifoso che può fare la umanità, era andare in Africa a prendere esseri umani, portarli come merci a America Latina, venderli come merci, e questo non lo hanno fatto nessuno con due africani, lo hanno fatto con milioni di africani, e durante quasi un secolo e mezzo. Durante tutto quel processo qualcun africano arrivava alle coste colombiane molto malconcio, quindi non era commerciabile, non si poteva vendere, li lasciavano buttati per le strade. Qualcuno arrivava con la forza di lottare, per fortuna, e qualcun altro potevano fuggire per qualcun motivo nel mezzo del porto. Ci riuscivano. Loro si sono costituiti in una comunità fuori di Cartagena, che si chiamavano Palenque y Cimarrón. Erano comunità di resistenza, propriamente resistenza. Si attrinceravano in quella zona e cominciavano a fare un lavoro bellissimo, che era un lavoro di aiuto a questi compagni africani. Cioè, quindi facevano... compagni africani hanno fatto una comunità di resistenza, hanno fatto una specie di... esercitavano l'autonomia e hanno vissuto con autodifesa e autonomamente durante moltissimo tempo, e da questo processo bellissimo ha uscito anche questa musica. Poi è uscita una lingua pure. Si hanno inventato una lingua che quella è un'altra storia carinissima, Palenque. Era perché moltissimi africani arrivavano da diverse parti di Africa e avevano diverse lingue, non si capivano e si hanno bisognato di inventare una lingua, e si hanno inventato una lingua curiosissima, che solamente la parlano in quella città. Certo. San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque. Andiamo ad ascoltare un altro po' di questi esempi che ci ha portato Eder. Cos'è questo, Marta? Cantadores del Pacífico. Andiamo verso la costa pacifica. Sì, dai. Sì. Vai. Il currulado. Oh. allora posso dire io quello che noto, però questi, tu adesso parli da cultura, io invece parlo di quello che vedo, no? Allora, mentre prima c'erano proprio dei classici tamburi africani, vedevo degli djembè, gli altri non mi ricordo come si chiamano, però insomma che indubbiamente, poi vedo in mano per esempio a senegalesi, quindi indubbiamente molto più marcati, qui sento ancora tanta Africa, però ci sono dei legni diversi, sento una marimba, che è appunto questa specie di xilofono fatto invece credo non so con che tipo di legno, e vedo intanto questi, esatto, no, altri tipi di tamburi che invece si portano sbattuti con delle manici, non so come si chiamano. E sì, anche qua, no, c'è un DNA africano, vedo dei vestiti e comunque c'è sempre il ballo ad accompagnare. Noi adesso quando faremo il podcast di questa trasmissione vi metteremo tutti i link di YouTube, perché alcune di queste cose senza vedere il ballo un po' perdono molto del loro senso, no, del credo. Quindi metteremo i link di modo che li potete anche ballare. Anche qui di botto appunto questa grande gomma bianca e l'uomo col fazzoletto, si comincia a vedere questo ballo diverso sicuramente da quello di prima, che invece era indubbiamente proprio Africa. Anche questa è Africa, esatto. Stiamo parlando della zona del Pacifico colombiano, che è la zona che va in Colombia de frontera con Ecuador, saliendo verso el nord del continente, verso Panama, verso el tapón del Darién. Tutta quella pezzo di terra bagnata por el Pacifico. Noi, come voi sapete, noi abbiamo due oceani. Uno ya lo habíamos parlato, che è il Caribe. Questo es el otro, el inmenso Pacifico, que le persone che non lo conoscono dovrebbero conoscere, perché è veramente impressionante. È bellissimo, un spettacolo vederlo. Comunque, quel pezzo di meraviglia le abbiamo noi. E le abbiamo casualmente in una zona molto marginata. E questa ubicazione che sto a fare non è per casualità, è preso due zone molto marginate di Colombia e molto nere, per aprire il tema, non è fatto così, è fatto così, avrei potuto cominciare di un'altra forma. Questa era una comunità nera che durante la colonia e un po' prima della colonia si sono stabiliti, hanno cominciato a vivere in, sì, quella zona, con una fortuna di che erano zona con moltissime difficoltà per che l'uomo bianco potesse vivere. Perché? Perché era una zona dove abbondava la malaria e malattie tropicali, e gli africani si sono adattati benissimo a quel spazio. Guarda. E con quello hanno formato anche una specie di barriera in contro del bianco, in contro, certo, del conquistador, del spagnolo, e hanno sopravvissuto con molta difficoltà, però hanno sopravvissuto. Adesso sono una cultura bellissima, purtroppo molto marginata, purtroppo con grandissime difficoltà, una povertà in gran parte impressionante, però abbiamo molta speranza. In questo momento in quella zona è uscita una candidata presidenziale che fra noi è donna nera e uscita da quella zona, ha tutte le carte in regola per essere stimata per me. È una persona che io veramente voglio molto molto bene, Francia Marquez, per le persone, sì, ci parlavi di lei, infatti, per le persone che possano domandarci come si chiama, o per i colombiani che mi stanno sentendo, si chiama Francia Marquez. E ricordiamo pure questo ritmo che abbiamo sentito. Questo ritmo è un corlao. Bene. Un corlao è una specie di variazione un po' più elegante, per dire una forma, dei ritmi africani. Sì. Incluso in qualche momento cominciano a cantare in un idioma che non è propriamente spagnolo, sì, e che vengono delle lingue antichissime africane. Tu ci hai detto che viene dalla parte del Pacifico, in realtà, sì, no? Sì, sì, viene da tutta la parte. Prendiamo Ecuador. Sì, sì, sì, la, sì. La parte del Pacifico, frontera dell'Ecuador, e saliamo per il nord. Certo. Una Francia, un pezzo di terra. Una striscia, sì. Una striscia lunga che va fino al tapón del Darién, quasi canale di Panama. Sai perché? Penso a questo perché io avrei pensato, dicevo, con un ovviamente palese DNA africano, lo avrei definito più caraibico, ma invece dell'altra parte, cioè, lo avrei definito un ritmo africano, ma più caraibico. Non so perché, forse per la marimba, come diceva questo xilofono, e invece guarda, geograficamente no, è una marimba. Sta dall'altra parte lì, sta schiacciato fra il mare. Certo. Le cordigliere, sì, los Andes, sì, certo, che fanno la divisione del paese, e che sono un'altra in Colombia, zona. Certo. Capito? Quindi arrivano fino a Colombia, los Andes cominciano foto e vanno fino alla Patagonia, fino in fondo. Cominciano nella Patagonia o bueno, finiscono nella Patagonia, come volete, cominciando da sur a nord. Da una parte all'altra. Potete fare andate e ritorno. Cominciano in Patagonia e finiscono in Colombia. Andiamo ad ascoltare un'altra cosa. E ci spostiamo ancora. Allora dunque, spostiamoci a un'altra parte del mondo. Bellissima. Da Gianni Dacchi, questo è bellissimo anche perché. Allora, intanto il nome è molto carino: il contrapunteo. Contrapunteo. Allora, la musica cianera, andiamo verso Los Llanos. E vabbè, prima ve li faccio sentire e poi ci racconta col suo sorrisetto, Eder. Che Hernández, qué bueno que me lo encuentre. Usted que tanto le canta a esa tradición viviente, que son los toros coleados, deporte de hombres valientes. Acompáñeme a cantarle a este arte tan exigente. Oiga, señor Rafael, si quiere que yo le cuente lo que aprendí del coleo del pasado y del presente. Nació por necesidad de trabajar diariamente, arriando ganado mañoso bajo el sol llanero ardiente. Si abandonaba el rebaño un toro desobediente, tenía algún peón que colearlo y traerlo nuevamente. Así en las fiestas de pueblo todos estaban pendientes, coleaban para saber quién era el más competente. Hubo algunos que veían esto como algo indecente. Allá en el siglo XVIII aparece un expediente en tierras de calabozo firmado por un teniente contra algunos que aporrearon gano de algunos pudientes. Para seguir con el tema voy a decir lo siguiente, pues también fue coleador de fama sobresaliente, porque el coleo es del llano según los antecedentes, se difundió en el país empezando el siglo XX. Que se coleaba en Caracas, en el centro y en oriente, en el estado Bolívar en tiempos de Juan Vicente. Coleaban con madrinero, no como se hace actualmente, el toro era utilizado por una vez solamente. La manga era de pipotes con madera resistente, se rellenaban de arena y no habían inconvenientes. En el centro de Yaracuy se coleaba fuertemente, con sombrero y liquilique y pelotones calientes. Estos pelotones eran de más de 12 jinetes, los primeros estatutos escritos correctamente. Aparecen en Bolívar, dice la historia fielmente, y por puntos en Miranda se colió primeramente. El año 42 se organiza legalmente. Allora, en lo específico, quello che stavamo ascoltando è A los tres toros coleados, Rafael Pérez, contrapunteo, direi, de Los Llanos, dici Eder. Vabbè, los llanos orientali, los llanos orientali, una immensa pianura che cubre praticamente Colombia e Venezuela, più quasi la metà di Colombia e quasi la metà di Venezuela. Questa cultura è unica, quindi se c'è un venezuelano, se intendeme, non creda che non lo so che in Venezuela lo sono, no? So che lo fanno e che lo fanno benissimo, sono bravissimi in quel campo. La cultura llanera fa parte, è lo che non unisce, perché lo siamo popoli fratelli. Abbiamo fatto una lotta insieme, abbiamo fatto tutta una campagna di indipendenza e quello non ha fatto fratelli, indipendentemente di tutti i problemi che possiamo avere e della stupidaggine che faccia i nostri governi, siamo un popolo fratelli. Sì, sì. E un'altra cosa che non possiamo dimenticare è che l'indipendenza di America Latina, bueno, Sud America, non sarebbe impossibile se questi uomini che cantano queste canzoni llanero non avessero preso le armi a favore di Bolívar. Non avrebbero preso le armi, certo. Perù si indipendenza con i llaneros venezuelani e colombiani, Colombia si indipendenza con loro, Venezuela le stesse, sono uomini coraggiosi, valorosi, interessantissimi. La musica è una musica molto europea, più con influenze europee, molto sì, più no? Con chitarra, arpa, il chitarrone triple e soprattutto l'arpa, che è un strumento tipicamente europeo, non si conosceva prima che arrivassero voi lì, e abbiamo fatto una cultura bellissima. Questi uomini sono specialisti soprattutto in gestire il bestiame, e fanno una corsa che loro considerano bellissima, che è il prendere un bestiame, una mucca, un cavallo come ginete al pelo, ossia senza la silla. Sì, sì. Vanno dietro un toro, una mucca, la prendono per la coda, la fanno capo al volo. Non è facile. No, non è facile, va bene, per essere umani della campagna, lo sciamero, fa parte della cultura, fa parte della storia, la musica, la carne. Dopo i trovadores che fanno il contrapunteo, ragazzi, sappiatelo, sono come diciamo quelli che fanno il rapper, che fanno freestyle. Capito? Allora guarda, no? Prima del freestyle, io quando mi sono guardata, no, che sceglievamo i link, mi mandavi i link, io così mi occupavo della musica, sono andata a vedere questo contrapunteo, cioè, per esempio ho trovato dei contrapunteos che sono tra due cantanti, tra due voci, che indubbiamente sembrava un po', avete presente quella famosa scena di Claudio Villa e Gabriella Ferli che si prendono in giro con lo stornello? Ecco, invece che lo stornello c'era il contrapunteo, e questi due palesemente si cantavano delle cose, dicendosi cose anche così divertenti, poco carine, in maniera cistosa, come succede con questi tipi di musica. Quindi sicuramente il contrapunteo poi ha una sua ci sono diversi tipi di musica, no? Poi credo anche in Colombia viene monte il porno, diciamo altri sottogruppi di musica che poi servono anche popolarmente, no? Tradizionalmente sono fatti per tirar fuori anche il ciste, il divertimento, il pettegolezzo, no? E il contrapunteo ovviamente un po' il contrapunteo llanuro, perché esistono anche il contrapunteo paisa, che si chiama trova paisa di Antioquia, esatto, zona andina, che ancora non siamo arrivati lì. È una discussione fra due persone con una con regole ritmiche e rima musicale, bisogna essere musicale, però è una discussione fra due, un contrapunto, come dice la parola, molto interessante. Per ultimo, per finire questa cosa, quando Gabriel García Márquez ha vinto il premio Nobel, ha preso una camicia tipica di questi personaggi, che si chiama guayabera, e l'ha portato a Stoccolmo per ricevere il premio. Grazie. E ricordo che il governo venezolano in quella epoca stava molto più felice che il di Colombia, perché lui aveva portato la camicia tipica di Venezuela per dimostrare che siamo una sola patria. Bene, capito, che robetta. Cosa andiamo ad ascoltare quindi? Continuiamo in questo percorso musicale che ci ha proposto vedere attraverso la Colombia. Io, secondo me, io la direi così: andiamo molto più verso suoni che ci ricordano la natura, l'acqua, gli uccelli, quindi molto più verso la selva. Amazzonia. Thank you. eres el banco, que eres el origen de la vida. En tus selvas, tus montañas, donde nace el aire puro que respiro. En tus selvas y a tus ríos, donde nace el agua pura que bebemos. Indubbiamente, non solo, insomma, un testo anche più chiaro, non solo la musica, si parla anche così di una cosmogonia, posso dirlo? Di un altro mondo. Comunque di, della terra, si comincia a parlare di elementi anche in maniera diversa. Prima capivamo anche meno il testo, sicuramente c'era molto africano, quindi chissà. Però insomma, sicuramente questa è selva, no? Sono popolazioni che tornano a parlare di una madre terra, origine di vita, un legame assolutamente diverso da quello a cui siamo abituati, no? Va bene, comunque che viva la Pachamama. Certo, sempre. E la canzone si riassume in quella parola, Pachamama. E questa dove sono? Questa è la zona amazzonica di Colombia. Colombia è una vastissima zona amazzonica, impressionante, tra altre cose. Sta fra frontera con Perù, Ecuador, Brasil e parte di Venezuela. Voi sapete, bueno, se non lo sapete te lo dico io, che l'Amazzonia ha intorno a 7 milioni di chilometri quadri e compone più o meno 12 paesi del mondo, sta intorno a quelli, e noi siamo un paese amazzonico con una quantità impressionante, ossia il peso dell'Amazzonia è noi è più o meno un 33-35% di tutto il paese della Colombia. Sì, della Colombia. Per disgrazia è una zona anche molto abbandonata per lo Stato, con altissimi gradi di violenza armata in tutte le zone. Vabbè, comunque per quello io sempre sto a fare quel racconto delle cose più marginate, più poveri. La zona amazzonica, ma ovviamente diciamo vicina agli Andes, no? Perché sì, no, dicevo, in questo che abbiamo sentito, questo è musica andina, no, pure. È musica anche amazzonica. Claro. È musica anche amazzonica. È la musica che nos une con paesi come Perù, Bolivia, come Ecuador, il nord dell'Argentina, come nord dell'Argentina, e per quello noi o io sempre ho parlato della patria grande. Certo. La patria grande non è un schema inventato per una persona senza nessuna logica reale. Se voi studiate nostra storia, nostra cultura, potete capire benissimo che la patria grande è un bisogno fondamentale per il nostro paese. E questa no, l'altri non ne va con Africa, non faceva enlaci fraterni con quella Africa sclavizzata, con quella Africa nera, con quella Africa subsahariana. Adesso questa non fa l'alleanza, la fratellanza fra popoli più latinoamericani, più sudamericani, Bolivia, Perù, Ecuador, fino al nord d'Argentina. Sì, no, il concetto della patria grande riferisce a questo, no? A una matrice culturale veramente condivisa da tanti paesi che ci affratella, veramente. E seguir la orinoquía nos faceva la unione con l'Europa, almeno strumentale, con tutto lo che era Venezuela, con tutta la zona venezolana, e a livello di strumenti e musica, la musica dell'orinocchio, il contrapunteo e tutte le sue varianti, è musica tipicamente europea. Certo. Passiamo all'altro e vediamo che la cosa si è... Qua non dove dico niente, vedo solo una coppietta con un, dove andiamo, con un cappellino, ora? Niente male. Ascoltiamo. Cuando en las tardes remonto el río, baile mis manos rudas el tanalete, azotando las aguas con maestría, y en las noches de luna desafía la corriente y avanza la canoa, que es mi fortuna. Y en las noches de luna desafía la corriente y avanza la canoa, que es mi fortuna. Mi canalete, rey del remanso, que fue tallado de humilde balso, él es testigo de mis amores y siempre me acompaña en mis ratos de hastío, y cuando estoy alegre también se alegra conmigo, y siempre me acompaña en mis ratos de hastío, y cuando estoy alegre también se alegra conmigo. Canalete, rey del remanso, que fue tallado de humilde balso, él es testigo de mis amores y siempre me acompaña en mi rato de hastío, y cuando estoy alegre también se alegra conmigo, y siempre me acompaña en mi rato de hastío, y cuando estoy alegre también se alegra conmigo. Y cuando estoy alegre también se alegra conmigo. Beh, questa l'abbiamo potuta sentire tutta. Quindi mo dici un'altra cosa. Questa è un'altra musica molto diversa da tutte le altre. Molto. Però dire. Molto diversa. È una musica molto più raffinata, con un spagnolo perfetto, con una melodia pure un melodia po'. Un po' molto interessante, con l'uso della chitarra e il triple fondamentale per questa musica. Dove si fa questa musica? Dove? È in Colombia, presumibilmente. No, ma sì, ma in che zona? Pensavo a Trastevere. Stiamo parlando di un immenso corridoio di montagne che ci sono in America Latina e in Sud America, sì. Che lo chiamiamo Los Andes. Sì, sì, non so se avete mai sentito nominare. In Colombia Los Andes entrano per Ecuador, sì. E salgono verso il nord di Colombia, si dividono in tre: occidentale, centrale e orientale. Bene. E lì si costituiscono le principali città di Colombia. Ok. O sea, praticamente el slupo tra le montagne burguese, aristocratico de Colombia, lo que voi conoscete normalmente de Colombia, parlate di quel peso de te, quello, okay. Que es una cosa grandísima, pero quel peso. Y en quel peso nasce questo tipo de música, música andina, que es un'altra comunione indiscutible con la Europa, con el criterio europeo de la guitarra, sí, de España, ritmo, sobre de la melodía. Todo. Si vos sentiste la música española, el español son bravísimos en el uso de la guitarra, de la melodía, de la composición, no estrilante, parlata con bene, con tutti questi suoni bellissimi. Onestamente è una musica che a me piace molto, perché sono di quella zona, quindi se vi parte allora, porca miseria, adesso capisco, metaliano le gambe, però metaliano le gambe, come diceva Maradona. Però è una questione interessanti, quindi continuiamo con quello, quella montagna, quell'unione delle montagne nos une, nos abbraccia con tutto Sudamerica fino a Argentina, fino a quelle montagne muoiono o nascono, dipende, via, perché in Colombia dicono che muore in Colombia, quindi dovrei nascere perché là. Se dite quello, allora sì, per carità. Tutta quella montagna bagna il principale paese bolivariani e è lì dove nasce questa musica bellissima, che è molto quando uno parla di musica andina in altre parti del mondo, in altre parti del Sud America come Bolivia, è sì, molto più simile alla che noi abbiamo sentito. È vero, infatti per questo ti dicevo, esatto, per questo ti dicevo che in Bolivia, Perù, sì, nord dell'Argentina, penso nord del Cile, quella conosciuta come musica andina è più simile a quella che avevamo ascoltato prima, la selva, esatto, in quelle montagne dove... perché se resume che... scusate, può essere prof alzo la mano, perché giustamente da quelle parti le Andes già stanno messi proprio quasi, cioè, in vicinanza, se non... No, io penso che... sono più verdi quelli Andes rispetto no, a quelli... Non lo so se sono più verdi o no, però sono bellissimi, grandissimi, altissimi. Però è perché come la colonizzazione spagnola ha fatto le 3-4 principali città lì, in quella zona... la cultura spagnola è entrato con molta forza, certo, in quella zona, si è arraigato lì, le famiglie che dominano Colombia politicamente sono principalmente quella zona, e quindi, non unicamente, però principalmente quella zona, quindi la cultura spagnola ha permeato, ha fatto come dicevo, ha eclissato le altre culture, certo, e quindi principalmente in quella zona, in altre zone ha avuto un po' più di difficoltà, però in quella zona la cultura è quindi per questa spagnola, forte, per quello forse è quella musica così. Certo, forse. Per questa forte influenza spagnola, sì, in Colombia la musica andina è questo tipo di musica, però effettivamente è fatta negli Andes, ovviamente, no? Andes. Ovviamente esiste, certo, musica andina fatta negli Andes, molto simile a Quilapayún o a Antilimani o a queste appunto altre, però questa musica che si suona in Bogotà o in Antioquia o in una zona dove abbiamo quella cordillera, sì, noi, io che sono paesa, mi identifico più con questa. Sì, ho capito, certo, con quella influenza spagnola, yeah, eccetera, eccetera. Senti, ne abbiamo un'altra, l'ultima. Adesso no? C'è un'altra che penso che va a essere una sorpresa per tutti voi. Vediamo? Vediamo se ne vero. Parliamo dopo allora. Sì. Marta, vai con il play. Qui dico meno di prima. Bombo Glatt, dico solo questo. Caribbean, the very best, is a beautiful island of San Andres. On Johnny Key, down on Sunday Beach, the pretty sun are like golden beach. On Johnny Key, down on Sunday Beach, the pretty sun are like golden beach. Live it up now! Take me down to my San Andres, through the waves and the coral. Changes colors, they are. Take me back to my San Andres, through the waves and the coral reef. Back to be in the sunshine bright, oh, where the sea changes colors, day and night. San Andres. Andres will be my memory. So now take me back to my San Andres, through the waves and the coral reef, back to me when the sun shines bright, oh when the sea changes colors. Che ti devo dire, take me down to San Andres, portami a San Andres, Eder, portamici, anch'io ci voglio andare. Va bene, San Andres. Perché la scelta di questo pezzo? Perché questo ritmo in levare? Perché questo pezzo? Perché mi è piaciuto. Grande Eder. Oh, quale motivo migliore? No, no, veramente, fuori scherzi. San Andres, Colombia, sono isole. Le isole colombiane, sì. Io sono consciente che non è soltanto San Andrés, quindi ci sono un sacco di isole. Sto parlando di San Andrés come la più rappresentativa, la più turistica, la più, non so, la più famosa. Ok. E c'è una piccola isola nel Caribe colombiano, vicinissimo a Nicaragua, Centro America. Allà, lontano. Allì arrivi. Sopra, che è una isola colombiana. Che fu la isola di Morgan, il pirata, il famoso pirata. Quello del rum, Capitan Morgan. Quello, basato in quella storia. Sì, sì. Morgan fu un pirata che le ha fatto la vita quadriti all'impero spagnolo e all'impero inglese. Era finanziato per l'impero inglese per fare la vita quadri a Spagna. Prendere l'imbarcazione, fare un sacco di problemi, e è una isola piccola, sta a una ora e 40 minuti di Colombia, di Medellín, in aereo ovviamente, e sta a meno di 30 minuti di Managua, Nicaragua, per fare una, per che abbiano una più o meno un, sì, sì, per quadro darsi un'idea. Sta. È una isola bellissima. Se avete più di 2 euro e potete fare una vacanza veramente bellissima, sì, andate lì. Bene. È il mare più bello che ho visto in vita mia, almeno il più vivo in specie animale vive. È una riserva ecologica naturale, è una riserva bellissima, c'è il mare di 7 colori, è una limpidezza impressionante. Che te posso dire, anche loro sono colombiani, per quello l'hai messo qua, fanno parte di Colombia. Bene. Non lo possiamo dimenticare, certo. Non parlano spagnolo, ossia la maggioranza delle persone parlano spagnolo con uno che viene dell'esterno, però fra loro parlano una lingua che chiama loro, dicono che è inglese, però in realtà non è un inglese, una mezcla di francese, inglese con spagnolo, una cosa un po' particolare, un creolo, diciamo, un specie. È una specie di creolo che purtroppo io non parlo, perché ovviamente con l'ignoranza e incapacità mentale mia c'è ancora tempo di imparare. Non deve essere facile, penso, comunque ci vuole. Comunque, però mi hai fatto venire voglia di farmi portare a San Andrés, è la parte più caraibica. Abbiamo continuo a parlare della storia della grande patria, Questa isola nos une con tutto lo che è Caribe, con tutto lo che è Jamaica, Cuba, tutte quelle isole e quella zona nos uniscono culturalmente in una forma indiscutibile. Quella è la cosa bella di Sud America, così gigante, anche se affaccia il Caribe, tutta Latinoamerica, dico, questi collegamenti, questa unione, no? della quale parli, è una cosa bellissima. Mica da tutti avere due oceani. No, di tutti. Infatti. Guarda come sorride, va. Bel percorso, bel giro ci ha fatto questo, fare. Con questo giro penso che no sono riuscito a spiegare tutto lo di Colombia, perché sarebbe impossibile. Mi scuso con voi se ho avuto qualcuna piccola imprecisione, però sbagliare su mano. E l'altra questione è che con questo faccio un una mostra, e che in Colombia hanno tutti i problemi, che ci sono cose che valgono la pena perché lottare e soprattutto perché morire. Grazie.